Proseguendo in Berachot 27b, edizione nuova italiana 364 al numero 7, la Gemara inizia a commentare quanto abbiamo visto nella Mishnah, la prima Mishnah di questo quarto capitolo intitolato Tefilat HaShachar, dove abbiamo parlato degli orari delle Tefilot, gli orari minimi e soprattutto gli orari massimi. E riguardo ad Arvit, vediamo che la citazione è stata, viene ricitata qui al numero 7, Tefilat HaErev en la Keva, che la tefilà della sera di Arvit non ha un limite, non ha una cosa fissa come tempo. Così abbiamo studiato nella Mishnah. Avevamo capito, quando abbiamo studiato la Mishnah, che non c'è un limite durante la notte, bensì l'obbligo va avanti tutta la notte. Però questo è un modo strano per indicare un tempo. En la keva, non ha un limite. Avrebbe potuto dire tutta la notte. Quindi la Gemara analizza un attimino cosa si intende esattamente. E la Gemara dice, mai en la keva. Cos'è il significato di queste parole en la keva, non ha limite? Ilema di bai mezzale kule leglia. Se il senso è che se uno volesse potrebbe pregare tutta la notte, allora l'itne, la Mishnah, dovrebbe insegnare, dire, tefilata erev kola laila. L'obbligo della tefilà della sera di Arvit vige tutta la notte. Ok? Invece, elamai en la keva, invece perché lo esprime in questa maniera qui che non ha limite? Che mande amar, in realtà, dice Agmarà, probabilmente perché questa Mishnah segue l'opinione per la quale tefilat Arvit reshut, per la quale la tefilà di Arvit è facoltativa. Quindi en la keva non vuol dire che non ha un limite nel tempo necessariamente, ma che non è stata fissata come le altre tefilot, e cioè che Arvit in teoria parte come una tefilà facoltativa, dove se uno vuole la fa e se uno non vuole non la fa. Quindi non rientra nei 100 bracotte che uno deve fare durante il giorno? Rientra, perché se tu le fai allora effettivamente entra. No? Anche una berachà facoltativa entra nell'elenco di 100 berachot. Se tu mangi una mela e fai una berachà prima e dopo, entra nell'elenco del 100 berachot, ma non sei obbligato a mangiare la mela. Ok? Quindi quello è un altro discorso, il discorso che ogni giorno bisognerebbe fare almeno 100 berachot, Baruch Atah Hashem. Però questo è un altro discorso. Qui dice, forse, probabilmente la nostra Mishnah segue l'opinione per la quale la tefilah di Arvit è reshut. Reshut vuol dire facoltativo. Dove vediamo che esiste questa opinione? Citiamo subito di Amar Rav Yehuda Amar Shemuel. Disse Rav Yehuda a nome di Shemuel, Tefilat Arvit, riguardo alla tefilah di Arvit esiste una discussione tra i maestri della Mishnah. Rabban Gamliel Omer Chova, il maestro Rabban Gamliel, che era il Nasi, il capo del Sinedrio, infatti il titolo Rabban invece di Rabbi indica questa posizione di Nasi, di capo del Betin, di capo del Sinedrio. E quindi, secondo Rabban Gamliel e Chova, è obbligatoria la tefilah di Arvit, mentre invece, secondo Rabbi Yehoshua, Omer, lui dice, reshut, è facoltativo. Ora, qui abbiamo avuto quindi una citazione di una discussione dei maestri della Mishnah. Ma come è stata risolta? Qual è la decisione finale? È obbligatorio o facoltativo fare Arvit? La Gemara subito dice, Amar Abaye, il maestro della Gemara, quindi molto successivo ai maestri Rabban Gamliel e Rabbi Yehoshua citati, Abaye dice, Alaha che divrei a Omer Chova. Abaye dice, la halakha segue l'opinione che ritiene che Arvit è obbligatoria. Rava discute con Abaye e dice no. Verava amar halakha che divrei haomer reshut, che la halakha segue l'opinione che dice che è facoltativo dire Arvit. Quindi questo significa che la discussione non è conclusa ai tempi della Mishnah e che anche ai tempi della Gemara la discussione ancora era in vigore. Chi riteneva con una posizione, chi riteneva come un'altra. Ora, di fatto, nel momento in cui Abaye e Ravà hanno discusso su questo fatto, la regola generale è che in tutte le discussioni, e ce ne sono molte, tra Abaye e Ravà, l'Alaha segue Ravà, con sei eccezioni, e questa non è una delle sei eccezioni. Quindi, in questo caso, l'Alaha segue Ravà, che la decisione alachica è stata presa, che la tefilà di Arvit è considerata facoltativa. Poi arrivano i poskim successivi alla Gemara, e come il Rif, Rabbeinu Alfas, il Rambam, lo stesso Maimonide, il Tur e così più avanti nel Shulchan Aruch, eccetera. E vediamo che, nonostante la Tefilah di Arvit fosse considerata inizialmente reshut, facoltativa, alla fine, visto che i Bnei Israel l'hanno accettata come tutte le altre tefilot, quindi considerandola come se fosse obbligatoria, a quel punto diventa obbligatoria anch'essa, per la prassi di averlo accettato come una mitzvah obbligatoria, come una tefilah, come tutte le altre. Però, anche se di partenza la decisione era che era da considerare reshut, facoltativa. Ora, in questo contesto qui che abbiamo aperto la discussione sulla Tefilà di Arvit, sulla sua definizione alachica, la Gemara cita un racconto che è accaduto e che è partito da una discussione simile proprio su questo tema qui, o in qualche modo questo tema qui è stato coinvolto in una discussione più ampia. Il racconto è abbastanza lungo e quindi non credo che lo finiremo oggi, però almeno lo inizieremo, ok? Vediamo di che si tratta. Il numero 8, sempre a pagina 364. Tanura Banan, i maestri insegnarono in una baraita e raccontarono, ma se accadde un fatto, betalmid echad, riguardo un allievo dei Chachamim, sheba lifnei Rabbi Yehoshua, che venne dinanzi a Rabbi Yehoshua. Quindi i protagonisti centrali in questa storia sono gli stessi che abbiamo citato prima, Rabban Gamliel e Rabbi Yehoshua. Quali erano i ruoli di questi maestri? Allora bisogna capire che la struttura del Beddin Agadol, quindi del Sinedrio, del Sanedrin, era composta da 71 giudici, 71 Chachamim, che formavano appunto l'Accademia Centrale di Am Israel, nella decisione dell'Alaha e nel giudizio ovviamente come Bet Din. Accanto al Bet Din Agadol c'era il Bet HaMidrash Agadol, cioè la grande accademia di studio, la Yeshiva, dove in pratica i maestri del Bet Din Agadol insegnavano e anche gli stessi maestri studiavano dai maestri più grandi ancora. E ovviamente c'erano anche i Talmidim, quindi gli allievi che venivano ad attingere le acque della saggezza della Torah dai Chachamim. In questo momento storico, il capo del Sanedrin, e che il termine che si usa è Nasi, era Rabban Gamliel, e la struttura era che c'era il Nasi e il Av Bet Din, quindi il vicepresidente si chiamava capo del Bet Din, era il suo titolo, Av Bet Din, Av come padre, no? Quindi a capo di, capo del Bet Din, e in questa situazione Rabbi Yehoshua era il vice di Rabban Gamliel, quindi Rabban, appunto di nuovo col titolo Rabban, e Gamliel, che proveniva dalla casa di Hillel, era un nipote del maestro Hillel Azaken, che a sua volta era nipote di David Amelech, quindi il seggio del Nasi era anche dato in questo senso, cioè era come visto come un'estensione del regno della casa di Davide in un certo senso, riconosciuto dal governo, perché qui stiamo parlando quando siamo già sotto il governo romano, e la corrispondente babilonese al tempo stesso avevano il capo degli ebrei in Babilonia, si chiamava Resh Galuta, il titolo, cioè capo dell'esilio, degli esiliati, e anche lui proveniva dalla casa di Davide, anche lui era riconosciuto dal governo lì, in Babilonia. Ok? Sì. C'era oltre al Sinedrio, quello grande, c'era anche il piccolo Sinedrio. Sì. Che funzionario di 36, se non sbaglio? Che funzionario rispetto all'altro? Cioè, qual erano? Allora, benissimo, allora, il Bet Din Agadol era il Sinedrio, la Corte Suprema, ok? Però come in ogni sistema giudiziario ci sono corti minori e corti più importanti, quindi la Corte Suprema era il Bet Din Agadol, e poi c'è una Bet Din normale che è formato da tre Chachamim che possono giudicare su questioni soprattutto monetarie e rituali, e invece il Bet Din più importante di 23 non di 36, ma di 23 Chachamim, hanno già la facoltà di decidere su questioni di vita o morte, quindi su regole che potrebbero coinvolgere una pena capitale, e nel caso non fosse una cosa che non si potesse risolvere nelle corti minori, allora si risale finché si arriva al Bet Din HaGadol, finché si arriva alla Corte Suprema, ok? Anche per questioni di dubbi, se ci sono dubbi su determinate halachot, come vanno affrontate, dovrebbero essere risolte in maniera locale, poi se non riescono a risolvere in maniera locale, risalgono nella gerarchia delle corti finché si arriva al Bet Din HaGadol. Okay? Quindi il Bet Din HaGadol aveva questa funzione qui, questo ruolo qui, ma aveva, soprattutto nel periodo in cui stiamo parlando, dopo la distruzione del Bet HaMikdash, aveva un ruolo molto importante e centrale proprio nella gestione di tutta la vita ebraica, perché stiamo parlando che già il Bet HaMikdash non c'era, quindi non c'era il culto centrato su Yerushalayim, sui Kohanim, eccetera, quindi tutta la gestione della vita ebraica, sia a livello tecnico, legale, che a livello sociale, religioso e rituale, viene gestito dal Bet Din HaGadol. Quindi è una struttura estremamente importante, di grande importanza. A questo punto una curiosità. Sì. I tribunali erano divisi in circoscrizioni, e al loro interno c'era chi si occupava di affari civili, civilistici, monetari e penali. Allora, non credo che il fatto di distinguere tra questioni penali o civili, assolutamente sì, perché ci può essere un giudice che è autorizzato a gestire questioni monetarie e non questioni penali, per esempio, ok? Quindi sì, ci sono specializzazioni diverse anche all'interno del sistema giudiziario, del Bet Din, anche all'epoca, assolutamente sì. Infatti abbiamo tutto il trattato di Sanedrin, che è un trattato di Mishnah e di Gemara molto, molto vasto, che tratta tutto il discorso del Bet Din. Allora, cosa succede? Abbiamo Rabban Gamliel, che è il Nassi, il presidente del Bet Din, e abbiamo Rabbi Yoshua, che è il suo vice. Arriva un allievo e pone una domanda a Rabbi Yoshua. E la domanda è, appunto al numero 8, Amar... Shebali Fener Bishua, Amarle, gli disse Rabbi Yoshua, Tefilat Arvit, la tefilà della sera, Reshut o Chovà, è facoltativa o è obbligatoria? Tukur gli ha posto la domanda. Amarle, gli rispose Rabbi Yoshua e gli disse, Reshut, è facoltativa. Questo allievo poi andò da Rabban Gamliel, fece quello che io spesso dico di non fare, ha chiesto a un rabbino, non andare a chiedere un altro. Balifne Rabban Gamliel, venne da Rabban Gamliel e gli pose la stessa domanda. Amar leo, tefilat arvit reshuto chova, la tefilat di arvit è facoltativa o obbligatoria? Amar lei, gli disse chova, è obbligatoria. A quel punto l'allievo non si è fatto mancare nulla e ha detto a Rabban Gamliel, amar lei, va allora Rabbi Yoshua amarli reshut, ma Rabbi Yoshua mi ha detto che è facoltativa. Lui ha detto va diretta a lui. Allora, Amar lei gli rispose Rabban Gamliel, Hamten, attendi ad she yikansu ba'alei terisin levet hamidrash. Attendi che entrino i portatori degli scudi al Bet HaMidrash. Per i portatori degli scudi si intende tutti i chachamim. Il riferimento a un oggetto usato per la guerra non è a caso, è proprio un modo di dire per indicare la discussione che avveniva nel Bet HaMidrash, il fatto di lottare per arrivare a delle conclusioni chiare sulle parole della Torah e sulla la tradizione. Allora, che se nichnesu ba'alei terisin, allora perché gli ha detto aspetta? Per dire, quando entreranno tutti i chachamim, potremmo chiarire una volta per tutte questa cosa, la funzione, tra l'altro, del Sanedrin, quindi del Bet Din HaGadol, appunto come dicevo prima, se c'è un dubbio, è il ruolo del Bet Din HaGadol, prescritto dalla Torah, di votare e di seguire come alahà la maggioranza ottenuta nel voto nel Bet Din HaGadol, quindi proprio per questo sono 71 e non 70, per poter avere un numero dispari e arrivare ad una votazione che possa essere verso un lato o preferire l'altro, e quindi ha detto ok, aspettiamo che entrino tutti, chiariamo questa cosa e arriviamo alla conclusione. Ora vediamo che cosa succede. Nichnesu, kesh nichnesu baleter issin. Quando entrarono i portatori degli scudi, cioè entrarono tutti i chachamim, amad ha-shoel ve-sha'al, si alzò colui che aveva posto la domanda e pose la domanda. Tefilat arvit reshuto chova, la tefilah di arvit è da considerare facoltativa o obbligatoria? A quel punto Rabban Gamliel rispose di nuovo, amar lo Rabban Gamliel chova, è obbligatoria. E poi proseguì Rabban Gamliel il suo discorso e disse, amar lahem Rabban Gamliel a chachamim, disse Rabban Gamliel a tutti i presenti chachamim, che lum yesh adam shecholek bedavar zeh, c'è forse qualcuno che non è d'accordo su questa cosa e ritiene che è facoltativa? Rabbi Yoshua, che era il vice, quindi rispondeva per tutti gli altri, amar lei Rabbi Yoshua, lav, gli disse Rabbi Yoshua, no, non c'è nessuno che discute con questa cosa. Allora a quel punto, amar lei, gli disse Rabban Gamliel, vahalo mishimcha ameru li reshut, ma a tuo nome mi hanno detto che è facoltativo. A quel punto Amar lei gli disse, rivolgendosi direttamente di nuovo a Rabbi Yoshua, ma senza il titolo Rabbi, solo con il nome, Yehoshua, amod al raglecha via idubecha, alzati sui tuoi piedi e testimonino riguardo a cosa hai detto. Normalmente in un Beit Din, se c'è una testimonianza contro o per qualcuno, la persona imputata, diciamo, si deve alzare in piedi. Ma per un Chacham esiste la regola che dice il Chacham non deve stare in piedi. Allora il fatto che Rabban Gamliel dice a Rabbi Yoshua di stare in piedi è una cosa umiliante, perché lo chiama per nome davanti a tutto Yoshua, non Rabbi Yoshua con il suo titolo ufficiale, e lo fa alzare in piedi. Quindi lo tratta come una persona qualsiasi. Prima Rabbi Yoshua, per rispetto di Rabban Gamliel, tiene nascosta la sua opinione personale, dicono i commentatori. Non vuole mancare di rispetto al capo del Beit Din, al Nasi, alla stirpe della casa di Davide, eccetera, eccetera. E quindi per evitare un problema e una mancanza di rispetto dice nessuno discute. Però Rabban Gamliel voleva chiarire questa cosa, anche perché, come vedremo, voleva che ci sia una voce univoca nel Beit Din, e era ancora nel tempo in cui si doveva consolidare la posizione importante del Beit Din Agadol all'interno di Am Israel e verso l'esterno, quindi era importante per lui che ci sia una voce autoritaria chiara che emani dal Beit Din Agadol. E così Amad Rabbi Yoshua Raglav, si alzò Rabbi Yoshua sui suoi piedi, mi amare, e disse, il male anni chai vehu met, yachola chai lakhish et amet, se io fossi vivo e lui, per dire il testimone, fosse morto, se lui non fosse qui, allora io da vivo potrei dire no, non è vero quello che ha detto quello lì. Però achshav shani chai vehu chai, ma ora che io sono vivo e lui è vivo, e lui è qui presente, lo studente, no? Heach yachol achai lakhish et achai. Come può il vivo smentire la parola di un altro vivo? In altre parole, non c'è bisogno di testimoniare. Ammetto che io ho detto così. Quindi ammise di aver avuto una opinione contraria in questo riguardo. Ora, lui rimane in piedi, perché? Perché nel caso in cui il Av Beit Din ti dice di stare in piedi, la prassi era che non, il Nasi, il capo del Beit Din, ti dice di stare in piedi, la prassi era che non ci si siede finché non di nuovo viene dato il permesso da parte del Nasi. Quindi a Rabbi Yoshua non viene dato il permesso, e Rabban Gamliel va avanti nella sua derashah, nella sua lezione che aveva preparato per quel giorno. E Rabbi Yoshua tutto il tempo in piedi, che non si era mai vista una cosa così. Lui era il capo Rabbi Yoshua, no? Era il vice. No, Av Beit Din. Hayah Rabban Gamliel Yoshev Vedoresh. Tempo fa abbiamo riferito. Sì, adesso vedremo perché. Rabban Gamliel. Quel giorno. Rabban Gamliel faceva la sua spiegazione, il lezione della Shah, si intende lezione, Rabbi Yoshua Omed Raglav, Rabbi Yoshua era ancora in piedi. Ad Sherinenu Kolam, finché tutti i presenti iniziarono a mormorare tra di loro, e quindi ci fu questo rumore, questo mormorio, Veamru le Chutzpit a Turgeman, e dissero a Chutzpit, che lui, il nome è Chutzpit, lui era il Turgeman è colui che ripeteva ad alta voce in modo tale che tutta l'accademia possa sentire le parole del Nassi, quindi il Nassi parlava ma non urlava, e la funzione di Chutzpit era di essere un microfono umano, ok? E allora il popolo disse a Chutzpit, non lo dissero al Nassi stesso, stai zitto, questo no, ma dissero al portatore delle sue parole, Amod, fermati! E lui si fermò. Ve'amad, per rispetto di Rabbi Yoshua che era ancora in piedi, e lui si fermò e smise il suo, smise di riportare le parole di Rabban Gamliel, e quindi di conseguenza Rabban Gamliel dovette interrompere la sua lezione. Si dissero le persone, non so se avete tempo ancora, si dissero i presenti, al numero 9, a pagina 366, si dissero, ad kama nezarei venezil. Quanto tempo andrà avanti Rabban Gamliel a far soffrire, a tormentare Rabbi Yoshua? Perché dissero questo? Perché come vedremo subito, e qui vedremo anche dei riferimenti che abbiamo visto in altre lezioni passate, non era la prima volta che c'è stato un comportamento che sembrava al pubblico non essere di rispetto da parte di Rabban Gamliel nei confronti di Rabbi Yoshua. E appunto vengono citati questi episodi. Berosh Hashanah Eshtakad, il giorno di Rosh Hashanah dell'anno scorso, Zarei lo tormentò, lo fece soffrire. Quale fu la storia di Rosh Hashanah? Noi l'abbiamo studiato nella Mishnah di Rosh Hashanah, dove si raccontava che c'era una discussione tra Rabban Gamliel e Rabbi Yoshua sul fissare il Rosh Chodesh. C'erano dei testimoni che testimoniavano la nascita della nuova luna, che Rabban Gamliel accettò quei testimoni, ma che era praticamente evidente che non era una testimonianza buona. E Rabbi Yoshua non volle accettare quella testimonianza. A quel punto Rabban Gamliel disse, se il Beit Din ha accettato la testimonianza, significa che il Rosh Chodesh è fissato ed è riconosciuto. E per confermare questo, che tu accetti la decisione del Beit Din, tu Rabbi Yoshua vieni da me nel giorno in cui, secondo la tua opinione, sarebbe stato Kippur, vieni da me vestito come in un giorno feriale, con il portafoglio in tasca, con il bastone in mano, proprio per dimostrare a tutti che c'è una voce, non due voci, che emana halakha. Ok? E questo fu, e Rabbi Yoshua lo fece, ma il popolo si prese per il suo onore, disse già l'anno scorso lo ha fatto fare questa cosa. E questo era un episodio. Un altro episodio era stato Bivchorot b'maased Rabbi Tzadok. C'è un trattato della Mishnah che si chiama Bechorot, Bechorot è plurale di Bechor, cioè primogenito, che tratta tutta la regola che abbiamo una mitzvah nella Torah di donare il primogenito dell'animale al Kohen, ok? E quando c'era il Beit HaMikdash, allora cosa si faceva? Si portava il Bechor, l'animale Bechor, come Korban nel Beit HaMikdash. Ma nel momento in cui il Korban deve essere senza difetto, deve essere totalmente integro fisicamente, e ci sono tutte le regole specifiche di cosa costituisce un difetto, nel momento in cui non c'è il Beit HaMikdash, in teoria il Bechor è santificato, è per il Beit HaMikdash, allora non gli si può fare niente. Nel momento in cui spontaneamente assume un difetto, che alachicamente lo considera difettoso per il Mizbeach, per l'altare, anche se l'altare non c'è, nel momento in cui diventa difettoso, tu non lo puoi rendere difettoso, ma se spontaneamente accade, allora si può macellare e mangiare perché non è più degno per il Mizbeach. Ok? Allora uno dei maestri, uno dei grandissimi Chachamim, Rabbi Tzadok, uno dei Tanaim della Mishnah, aveva un animale Bechor ed è venuto a dire che si era spontaneamente, diciamo, diventato difettoso e Rabbi Yoshua ha detto ok, bene, allora puoi mangiarlo. Normalmente si richiede dalla persona di portare una prova o un testimone, perché se no tutte le persone possono dire spontaneamente, invece sei tu che sei andato a fare questo difetto per non avere anche questa spesa e questo disturbo di questo Bechor che non ci puoi fare nulla, non lo puoi disturbare, diventa il padrone di casa. Allora uno sarebbe portato a fare un difetto di nascosto, però Rabbi Tzadok, uno dei più grandi Chachamim, nessuno si è mai pensato che avrebbe fatto una cosa del genere. Allora Rabbi Yoshua ha detto ok, è permesso. Invece Rabban Gamliel ha detto no, non possiamo di fare differenze, per te accettiamo, da te non accettiamo. Certo mi fido di Rabbi Tzadok, non è quello il discorso, ma nella halakha dobbiamo, di nuovo, è sempre su una linea molto di grande chiarezza e di uniformità, cioè non possiamo fare differenze tra uno e l'altro e dire vabbè, da te lo accettiamo così il discorso. Allora in quella situazione anche Rabban Gamliel fece stare in piedi per tutta la durata della lezione Rabbi Yoshua a seguito di questo discorso qui. Quindi già l'episodio di Rosh Hashanah, già l'episodio di Bechorot, Hacha Nami Tzarei, e ora di nuovo oggi con questo episodio di Arvit, il popolo disse, ovviamente il popolo delle persone che partecipavano al Beit HaMidrash, al Beit Din HaGadol, Ta Venavre, rimuoviamolo. Vorremmo rimuovere Rabban Gamliel dalla posizione di Nasi. Quanto si può andare avanti così? Anche per rispetto di Rabbi Yoshua? Ok? Però, prima di fare una cosa così, hanno pensato, aspetta, chi possiamo nominare al posto suo? Manno Kimley. Perché era possibile elevare il capo dei senatrini? Evidentemente. Se il Beit Din HaGadol stesso decide. Non ha più la fiducia del consenso. Non è la rivoluzione francese dalla strada, è il corpo stesso, certo. Insieme, appoggiato da... la fiducia interna. Cioè rispetto a vice si stavano, quindi la togliamo. Si stavano un po'. Sì, allora i commentatori spiegano: non è che si era dell'opinione che Rabban Gamliel avesse abusato del suo potere per motivi personali, per rendere più grande il suo nome, eccetera. Era chiaro che aveva una linea di pensiero, una posizione per appunto consolidare la forza del Sanedrin, non suo personale, eccetera, di avere una voce univoca, eccetera. Però gli altri maestri non erano d'accordo con il modo con cui lo faceva, e in particolare nei confronti appunto di Rabbi Yoshua, che lo considerava un modo di mancanza di rispetto, di grande durezza e così via, e di conseguenza hanno detto cerchiamo di trovare un'alternativa. Chi potrebbe essere l'alternativa? Nochmel Rabbi Yoshua dice: possiamo forse nominare Rabbi Yoshua dalla posizione di vice alla posizione di capo? No, perché Balmasehu, lui è coinvolto di persona nella storia, non sarebbe giusto, sarebbe anche un affronto troppo forte nei confronti di Rabban Gamliel. Allora, altri grandi Chachamim, chi abbiamo? Nochmel Rabbi Akiva. Forse possiamo nominare a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva? La Gemara dice no. Hanno detto nella Braita cita Dilma Aneshlei. Forse Rabban Gamliel sarà non contento con Rabbi Akiva e questa cosa potrebbe essere che dall'alto lo puniscano a Rabbi Akiva. Perché? Dell'etle esecuta avot, non ha il merito dei padri che lo protegge. Vuol dire, se uno tzaddik si arrabbia con qualcuno, può essere una cosa pericolosa. Allora, uno che viene da una famiglia di tzaddikim, allora dice, forse il merito di quei tzaddikim lo protegge. Ma Rabbi Akiva non veniva da una famiglia ebraica, era figlio di convertiti. Allora dice, quali sono i genitori, i nonni tzaddikim che lo proteggeranno il suo merito? Potrebbe essere un problema per lui. Allora, Elon Ukmel Rabbi Elazar ben Azaria. Terza possibilità, nominiamo Rabbi Elazar ben Azaria. Ora la Gemara elenca nella Braita le doti di Rabbi Elazar ben Azaria per i quali Chachamim consideravano di nominare lui al posto di Rabban Gamliel. Quali sono queste doti? Prima di tutto, du Chacham. Lui stesso è saggio, quindi ha il proprio merito della saggezza. Inoltre, Vehu Ashir è anche ricco, non perché diamo importanza alla ricchezza di per sé, ma la ricchezza gli dona peso alla sua parola per il popolo, per le persone, per la sua posizione importante a livello sociale. Vehu Asiril Ezra, e per ciò che riguarda il merito dei padri, lui era una decima generazione del suo antenato, era Ezra Sofer. E la Gemara ora spiega tutte queste doti che la Braita ha detto. Primo, Huchacham è saggio, dove si esprime? Di Makshelem e Farekle. Qualsiasi domanda che gli si fa, lui risponde sempre. Ok? Sempre stato in grado di dare le risposte alle domande che gli sono state poste. Quindi ha la saggezza. Hu Ashir, e il fatto di essere ricco cosa ci aiuta? Di I Itle le Faluche le Beikesar, Afu Esilupelach. Se lui avesse dovuto trattare con l'imperatore, quindi affari esteri di Am Israel sotto l'impero romano, bisognava andare, spesso andavano, Rabban Gamliel viene citato che è andato a Roma, anche Rabbi Yoshua e Rabbi Akiva, eccetera, o a Roma proprio, o anche alla sede del governo locale in Siria, che era all'epoca il governo per Roma della zona. Lui potrebbe andare senza problemi per la sua posizione materiale e diciamo aristocratica importante. Vehu Asiril Ezra, ed è anche appunto decimo discendente di Ezra, di Itle Zechut Avot, che ha quindi anche il merito dei padri, e lo mazea Neshle Rabban Gamliel, anche se pregasse contro di lui, non potrebbe farlo punire, diciamo. Allora presero questa decisione e decisero di nominare Rabbi El Azar Ben Azariah. Atu ve Amrulei. Vennero a dirgli la seguente cosa: Nechalei le mar de l'Everesh Mitilta? Lei sarebbe d'accordo a diventare il Rosh Yeshiva? Il Rosh Yeshiva è un altro titolo che è interscambiabile con Nasi. Quindi il Nasi del Sanedrin, Rosh Yeshiva, Resh Mitilta in aramaico. Allora lui non rispose subito. Lui disse a Marlehu, Ezil ve imbich ben ashe beiti. Andrò a consultarmi con i membri della mia famiglia. Ok? Quindi Azal v'imlech bedvitu andò e si consultò con la sua moglie. E sua moglie disse, amrà lei, Dilma me abrin lach, come hanno deposto Rabban Gamliel, un giorno ti deporranno anche a te, quindi perché ti serve questa problematica? Allora lui dice, beh, questa non è una motivazione per non accettare, in quanto sì, c'è un detto popolare che dice, l'ishtamesh enash yom achada bekasa demokra ol machar litvar, che è meglio usare un bel calice di cristallo anche se solo per un giorno e domani si romperà, non vuol dire che oggi non lo devo usare. Allora la moglie disse, però c'è un altro problema, amara lei let la chivartà, non hai la barba bianca, in altre parole, non hai quel aspetto, diciamo, di una posizione, una carica così alta, normalmente la persona è anche più anziana, ha un aspetto molto, diciamo, patriarcale, no? Se non hai la barba bianca. Allora Gemara racconta, Auyoma Bartman Estresheneava, in quel giorno, quanti anni aveva Rabbi Elazar ben Azariah? 18 anni. Tutto quello che abbiamo detto di lui, aveva solo 18 anni, dice la Gemara. Itrachesh Leinisa, accade un miracolo, Vahadru Leite Manistre Dare Chivreta. E gli vennero 18 fili bianchi sulla barba. Ok? Hainu de Kamar Rabbi Elazar ben Azariah, questa è una parentesi che la Gemara fa, questo è quanto intende Rabbi Elazar ben Azariah quando disse Harei ani che ven shivim shana velo ben shivim shana. Nella Gadà di Pesach noi citiamo Rabbi Elazar ben Azariah che dice io ho 70 anni e non ho mai sentito la spiegazione di questo versetto. Ma lui non dice ho 70 anni, dice che ven shivim shana. Sono come un settantenne. Che vuol dire sono come un settantenne? Quanti anni hai? No? Allora come un settantenne vuol dire non sono un settantenne, ma è come se avessi 70 anni. Per appunto la saggezza e per anche evidentemente per questo nuovo aspetto materiale, fisico. Ok, allora qui si conclude la prima parte dell'episodio e si conclude appunto con la deposizione di Rabban Gamliel e la nomina di Rabbi Elazar ben Azariah. È deposto. Viene deposto e viene nominato Rabbi Elazar ben Azariah. E la disputa su Arvite poi... Adesso vediamo, adesso vediamo. A quel punto comunque... È la prima volta, Rabba, che accade? Mi sembra di sì. La Gemara però continuerà a raccontare la conseguenza di questa storia e vedremo che si arriverà a una sorta di tregua tra Rabban Gamliel e gli altri. Comunque la conclusione su Arvite in realtà l'abbiamo detta prima. Visto che ancora Abayé e Ravà ai tempi della Gemara discutevano, vuol dire che qui non era stata conclusa. E la conclusione segue Ravà, quindi, che per Alakha la tefilà di Arvite è facoltativa e poi è stata accettata come obbligatoria. Ma addirittura dopo ancora.